C'è solo un breve tratto da fare a piedi. Scendete pure, noi prendiamo le nostre cose e vi raggiungiamo subito.